Il 4 si fa reale, scendo e trascendo. Abbiamo nominato gli elementi che ci accomunano, le mancanze, le paure, le ferite, i desideri, ma anche la capacità di allacciarci a sapere implicito e indelebile del nostro potere naturale. Solo conoscendo le circostanze, le fondamenta, i paradigmi, il flusso informativo in cui nasce e si dispiega il fenomeno del conflitto fra le donne, esso può diventare l'occasione di arricchirci a vicenda in un campo di ricerca condiviso. Indipendentemente dal vissuto di ognuna, abbiamo conosciuto la corrente di memoria comune, il campo morfico, che definisce il plasma entro cui si manifesta la propria espressione individuale. La sua carica di nozioni e informazioni, di impronte ed esperienze si rispecchia nel nostro essere e nel comportamento, nella percezione di noi stesse e delle altre donne. Lo zainetto storico. Facciamo parte di un flusso storico che 5.000 anni fa ha cominciato a distruggere una cultura che teneva nella dovuta stima la donna e la sua innata saggezza, al pari di quella di ogni espressione vivente. Un flusso che ha continuato a manifestarsi in varie forme, tra cui l'Inquisizione, fenomeno rilevante degli ultimi secoli che ha avuto conseguenze indelebili sulla coscienza di sé e la realizzazione della propria vita. L'Inquisizione ha agito con grande efficacia e brutalità per eliminare ogni traccia di coordinate matriarcali e femminili nell'ambito culturale dell'Occidente cristiano. Il fatto stesso che ci sia stata e che abbia avuto necessità di sopprimere, uccidendo migliaia di donne e persone, la cultura precedente testimonia l'esistenza di questa cultura orientata alla ciclicità della terra. Ancora adesso troviamo i suoi retaggi nella vita rurale. Oggi c'è la tendenza a recuperarli e nei ritmi stessi delle festività cristiane. Durante l'Inquisizione, chi si schierava dalla parte delle donne rischiava di mettersi lei stessa o lui stesso in pericolo, di finire nel mirino della persecuzione e di dover subire e affrontare processi e torture di una crudeltà mai vista prima. Si è salvata la propria pelle aderendo alle regole del nuovo gioco e negando il legame inseparabile con le altre donne, o quella stessa pelle è stata bruciata, forse dietro segnalazione di una persona conosciuta, amata, fidata. Con l'Inquisizione la tematica del tradimento si scrive nelle nostre anime. O sono stata tradita, o sono stata traditrice. L'Inquisizione ci ha lasciato in eredità l'interiorizzazione che chi solidarizza con le donne rischia il tradimento, il lutto, la sofferenza, l'abbandono, la tortura, la messa al bando, l'umiliazione, la violazione, la morte. I vecchi sentieri, la spiritualità legata alla terra, non salvano di fronte all'irruzione violenta degli obbedienti seguaci di credenze astratte dettate da uomini e guerrieri. La cultura, che fino a un attimo prima era stata valida e condivisa, si frantuma, si sgretola davanti agli occhi, si spezza insieme alle convinzioni e ai sentimenti più profondi. Il sapere insito nei cicli della terra viene vietato e quindi abbandonato per ragioni di sopravvivenza. L'imperativo del credo sostituisce la possibilità di conoscere le leggi dell'esistente nell'osservazione indipendente e nell'autonomia. La cultura del Dio geloso soppianta con metodo e crudeltà mirata la cultura egualitaria della Dea nelle sue infinite manifestazioni, in sintonia con le espressioni multiformi della meraviglia di questa vita. La madre di Dio, nella quale viene trasformata la dea, nell'impossibilità di eliminarla, diventa una figura debole, sottomessa e implorante, esclusa dalla Trinità divina, e cioè da ogni potere decisionale, per dare un buon esempio alle donne. Si impara che proseguire con i vecchi modi porta ferite laceranti, paura e morte. E sul sentiero verso il sapere antico appare una nuova figura, il guardiano, che ci ricorda che da lì in poi c'è il dolore. Alle percezioni che vanno oltre i cinque sensi impariamo ad associare il divieto e il terrore. Possiamo essere rimaste paralizzate per mera sopravvivenza fisica ed emozionale, di fronte alla brutalità più efferata nei confronti delle donne e degli uomini che tramandavano l'antica sapienza. E queste immagini, impresse a fuoco nella nostra memoria cellulare, ci hanno indotto a negare i metodi imparati dalla natura e dal cosmo. È così che si cancella dal proprio panorama la possibilità e l'autorizzazione di potersi rifare a una visione femminile del mondo, circolare e multistratificata, nutriente e ugualitaria. Da quel momento, attraverso le informazioni del campo morfico, questa concezione è collegata inesorabilmente all'orrore vissuto. La gamma delle scelte di riferimento si riduce. Rimane il piano umano e maschile, ora che il femminile è ricoperto di vergogne e pieno di ricordi da evitare. Logicamente, essendo questo l'unico nutrimento consentito, siamo diventate dipendenti dall'accettazione e dal giudizio maschile. Se necessario, se ci sentiamo in pericolo, diventiamo determinate a difendere l'unica alimentazione ancora disponibile e accessibile, i suoi principi e i suoi elargitori. Dal complesso nutrimento della potenza elementare della natura, del sapere dei segreti dell'esistenza, dell'accesso alla propria saggezza intrinseca, della continuità storica di dignità e bellezza, si arriva quindi a doversi nutrire per tutti i bisogni, anche spirituali, sul solo ed esclusivo livello umano. Dalla certezza di essere un'espressione divina che fa parte di un grande tutto, si passa alla percezione del proprio sé come pieno di vergogne e ferite, in fondo sporco e detestabile, e con una consistente probabilità di essere complice delle sofferenze di compagne, sorelle, maestre. Una volta vietato il contatto diretto con l'essere divino esteriore e interiore, impariamo a dipendere da intermediari nella maggior parte degli ambiti della vita, quotidiani, religiosi, politici o filosofici che siano. Con la demonizzazione della magia, che altro non è che la capacità e il diritto di comunicare con ciò che ci circonda, non sembra rimanga altra scelta per continuare a vivere, far morire il proprio potere di gestirsi la vita autonomamente e obbedire ai nuovi paradigmi. L'opzione di una spiritualità autonoma, autentica, amorevole verso tutte le manifestazioni della vita stessa, viene abbandonata sotto la minaccia e la violenza a favore di una religiosità gerarchica che richiede obbedienza e fede assolute. A tutt'oggi l'impronta interiore della donna occidentale è plasmata da un immaginario nato nell'ambito della persecuzione e dell'estinzione della cultura matriarcale, di cui l'Inquisizione è stata fra i più cruenti artefici. I paradigmi connessi alla natura, alla terra, alle leggi della vita, che permettevano di comprendersi come una piccola particella di un organismo vivente molto più grande e meravigliosamente enigmatico, sono stati sostituiti da una filosofia razionale, distaccata dalla fonte originaria della vita, così tanto da credere di avere il diritto alla distruzione, allo sfruttamento, al maltrattamento e alla mancanza di rispetto verso la terra e le donne che la rappresentano. Questo definisce ancora oggi il nostro stato d'animo. È uno stato di grande disagio, di lacune incolmabili, di dolorosi ricordi, di riduzione di un mondo vastissimo e miracoloso al piatto livello umano, in cui si rimane affamate, assetate, senza riuscire a comprendere a cosa si ricollega questa insaziabile nostalgia. È la mancanza della dimensione spirituale, della consapevolezza della propria divinità, soppiantata dall'obbedienza coatta a un divino al di fuori di noi, con un sesso preciso, opposto e sovrano. Ci rimane il livello umano. Le intuizioni e la saggezza che ogni tanto si fanno strada, i ricordi, le immagini, le percezioni, i sogni, le capacità altre, sono coperti dal disprezzo del giudizio maschile, anche verso gli altri uomini, anche espresso dalle stesse donne, e associati a qualcosa di vietato, sporco, vergognoso e molto doloroso. Il giudizio umano, e soprattutto il giudizio maschile, costituisce ormai l'unica misura disponibile e viene quindi fatta propria nella valutazione di se stesse, delle altre e degli altri. L'ambito cristiano marchia la donna di vergogna, di sporcizia e di colpa. Come si può mai sviluppare un approccio fiducioso con se stesse o con altre donne se si nasce colpevoli di tutto il male esistente sulla terra? Come si fa a coltivare sicurezza, naturalezza, accettazione per sé e le altre se la definizione in cui si cresce nega l'essere divine, nega le capacità che vanno oltre il mondo della materia, collocandole nella zona instabile della pazzia? E circoscrive la donna come appendice di un elemento altro. Alla base della definizione di donna ci sono quindi confusione, insicurezza e insufficienza, che corrispondono alla scarsità imposta in tutti gli ambiti dal patriarcato. Le confusioni. Su questo terreno nasce anche il dramma dell'amore. La maggior parte di quello che chiamiamo amore, senza negare che esistono delle unioni bellissime che esaltano le possibilità di ogni persona e compongono un insieme più grande e brillante, è un accumulo di bisogni che si incontrano nella cornice della scarsità e della paura. Sono esigenze che l'altra persona sembra poter colmare. L'attrazione verso l'altro, nella sua espressione massima, può essere un gioco libero per festeggiare l'estasi della vita con l'energia erotica e sessuale, una delle più forti che possiamo sprigionare, per esprimere la meraviglia di far parte di un qualcosa di grande, enigmatico e meraviglioso. Può essere fonte di benessere per l'anima e divertimento sacro. Abbiamo disimparato che è nelle nostre facoltà essere il tramite che ci rende fonte di abbondanza e benessere. E cerchiamo un appiglio fuori da noi che sostituisca questa esuberante sorgente illimitata, cimentandoci indipendenze esistenziali. L'attuale concetto di amore in Occidente ha legami con la reputazione sociale, con l'economia, l'autonomia professionale e spirituale, a discapito soprattutto della donna che rimane, per mancanza di altre opzioni disponibili, in un rapporto di forte dipendenza. Anche nei rapporti omosessuali gli schemi seguiti sembrano essere gli stessi, senza che ci si interroghi più di tanto sui modelli che si vanno a nutrire. Senza autonomia emozionale e il riconoscimento dei bisogni autentici, è difficile costruire delle relazioni che non sviluppino le più variegate dipendenze. Senza il riconoscimento delle condizioni base della donna e con l'impronta limitante che fornisce l'ambiente sociale attuale, le dipendenze si ripropongono nelle relazioni, dall'incontro più superficiale all'intensità amorosa, dalla relazione eterosessuale all'incontro fra donne. Va considerato che il matrimonio monogamico, con la predominanza dichiarata dell'uomo, è un'invenzione di pochi secoli fa. È nato tra il 1500 e il 1600, come illustra Barbara Walker in The Women's Encyclopedia of Myths and Secrets, che spiega l'imposizione cristiana del matrimonio e il suo interesse di assicurare il possesso della donna all'uomo, mentre prima le donne godevano di autonomia economica e di autorevolezza. Nota, matrimonio significa il possesso delle donne, mentre patrimonio vuol dire possesso dei padri. Oggi matrimonio sta a indicare di fatto il possesso della donna da parte dell'uomo nell'unione coniugale, mentre usiamo patrimonio per indicare l'insieme delle ricchezze possedute da una persona. Può essere visto come l'ultimo imprigionamento dell'energia sensuale ed erotica, sia femminile che maschile, anche se nella narrazione storica attuale non viene letto come tale, perché lo sguardo che esamina è determinato dal concetto dell'amore patriarcale, che non prevede la fantasia delle relazioni alternative. È un po' come quel che è successo nell'archeologia, che non ha riconosciuto i reperti matriarcali se non dopo la comparsa delle ricercatrici femministe, che hanno messo in campo un'ottica differente. La sensualità libera, non diretta verso un altro essere umano, ma rivolta verso la creazione di per sé, anche se sperimentata con un altro essere umano, contiene un elemento di grande pericolo per il sistema di impostazione patriarcale. È l'espressione di una spiritualità ampia, che si collega giocosamente con la linfa vitale dell'esistenza e non si può contenere nelle dimensioni limitanti del livello umano, men che meno nel dettame di nutrirsi solo dal Dio unico e viceversa alimentare lui con la dipendenza programmata. Fino alla fine dell'Ottocento non era consuetudine definirsi esplicitamente eterosessuale, lesbico, omosessuale, bisessuale o transessuale, perché era tollerato nutrire inclinazioni per persone di tutti i sessi, purché non si ostentasse. Una tacita tolleranza e la possibilità di viversi senza doversi dire evitava sia una definizione che un'esclusione. È stata soprattutto l'ultima guerra mondiale che ha portato a un'eliminazione quasi totale di una fiorente sottocultura, caratterizzata da una grande libertà di genere e di rapporti sessuali. Le lesbiche e gli omosessuali sono stati incarcerati e in buona parte eliminati nei lager, distrutti i loro luoghi di incontro e la loro cultura, manifestamente vivace, dispettosa e sfacciata, ricca di grande umorismo, acuta nei confronti dell'ambiente politico e sociale. Un aspetto del tutto sorprendente dell'attrazione sensuale si trova nel fenomeno della guerra. Con l'azione dell'accusa, dell'aggressione, della diffamazione, della preparazione all'attacco, si crea un legame emozionale, fisico e mentale molto intenso, un'ossessione per l'altra persona, proprio come succede agli innamorati. Pensare a una persona incessantemente, sentirla presente nella mente e nei sensi, studiare i suoi modi e movimenti, le sue strategie, le sue espressioni, le sue abitudini, è una modalità di avvicinamento a qualcuno molto simile al corteggiamento dell'innamorato nel desiderio di vicinanza e condivisione. L'interesse intenso mira all'incontro e alla fusione, anche se qui i metodi, in teoria, si differenziano. L'atto amoroso dovrebbe essere una fusione fra pari, guidata dal desiderio di felicità. Mentre nell'attacco guerresco la fusione viene programmata ed eseguita cancellando una posizione alla pari cui sovrapporre o sostituire la propria identità. Non sono al corrente di una ricerca in merito, ma sono sicura che l'attitudine guerrafondaia di uno Stato o di una società sia in diretta relazione con l'omofobia al loro interno. Nei tempi moderni, il mondo delle forze armate è quasi esclusivamente costituito da uomini e lì l'energia pura, maschile, può essere festeggiata e resa eroica senza incorrere in rischi di fraintendimento. Se fosse invece consentito vivere la propria predilezione per lo stesso genere sessuale come forma sociale, oltre che amorosa, come si sa di società pacifiche, antica Creta, Catalu Yuk e altre, avremo in mano un efficace strumento per gestire al meglio i conflitti, senza dover trasformare questa naturale predisposizione in ossessione guerresca e coinvolgere migliaia di persone nella confusione fra desiderio e obbedienza, costringendole a soffrire e a morire. Società matriarcali come quelle menzionate sopra, dell'antica Creta, durata fino al 1500 a.C., e di Catalu Yuk in Turchia, 7000 anni fa, erano sostanzialmente organizzate in modo omosessuale, in un senso lato della parola. Cioè la quotidianità si svolgeva fra donne e fra uomini, e l'incontro era un evento speciale da celebrare e festeggiare. Non a caso sono state, con grande stupore degli archeologi, plasmati dalla storia scritta dai vincitori, che si basano sull'Iliade, un racconto di guerra, culture pacifiche e fiorenti, di abbondanza condivisa trasversalmente, senza mezzi di difesa o attacco, che non hanno distrutto la base della loro esistenza, cioè la natura che li nutriva. Spesso ci dimentichiamo che a tutt'oggi è ancora così, nient'altro che la terra ci nutre. L'acqua, il suolo, l'aria, il fuoco e attualmente il concentrato di vite passate nelle sue viscere, cioè il petrolio. Mi fa piacere ricordarlo di tanto in tanto. Paragonando le condizioni odierne con altre invenzioni socioculturali non patriarcali e non cristiane, diventa più chiaro che l'imposizione del nucleo familiare isolante è una proposta coatta, l'unica opzione relazionale permessa. Nel dopoguerra viene ribadito dalla psicologia e psichiatria che l'omosessualità o la voglia di rapporti multipli è qualcosa che va curato per riportare l'energia erotica in un ambito più comprensibile gestibile, sfruttabile all'interno della stabile gabbia della dualità, a garanzia della preservazione del sistema attualmente esistente. Il conflitto fra le donne nasce frequentemente quando i ricordi che si accendono in un incontro, soprattutto a livello inconscio, alludono a possibilità di relazioni altre che vanno oltre il modello eterosessuale o duale. Basta la sensualità che con immediata naturalezza si instaura nei rapporti fra le donne a far risaltare l'incongruenza fra il sapere intrinseco e i modelli relazionali attualmente permessi. Queste confusioni, spesso molto difficili da nominare, localizzare, precisare, e prive di una terminologia idonea nelle nostre correnti pratiche di analisi e comprensione, possono creare disagio e precarietà. Mancando la trasparenza riguardo all'origine delle sensazioni, spesso come unica presunta via di uscita, rimane la proiezione sulla donna che sembra la causa dello stato sgradevole in cui veniamo a trovarci. Vietata l'attrazione fra donne, o meglio rivestita di un'aura di proibito, non accettato, non gradito, una qualsiasi attrazione fra donne può diventare la scintilla di un conflitto che nasce dal disagio con cui viene affrontata. Non sappiamo bene come muoverci al suo interno. Non soltanto mancano modelli ed esempi dignitosi che offrano libertà di scelta a tutta una gamma di alternative relazionali, manca soprattutto uno spazio libero e non predefinito in cui una relazione possa svilupparsi secondo le sue inconfondibili e irripetibili esigenze. Per evitare il disagio che nasce dentro queste gabbie, scatta il bisogno di ricondurre il rapporto ai modelli concessi nell'attuale società patriarcale. Riappropriarsi di una dignità che si definisce in primo luogo tramite il collegamento diretto con l'essenza della vita, e soltanto in seguito si dispiega sul livello umano, può essere una strada per smantellare le limitazioni interiori ed esteriori. Non dovendosi più attenere a dettami umani, diventa possibile creare nuovi modelli di essere, agire e interagire. Diventa possibile rivolgersi di nuovo a chi ci nutre, alla terra e alla natura, per colmare i nostri bisogni primari e spirituali e iniziare di nuovo a tramandare di madre in figlia la consapevolezza di questa provenienza, intrecciarci coscientemente nella sua meraviglia e scegliere quindi in libertà le relazioni con gli esseri umani. Con salde radici ferme nell'appartenenza sicura, quella che non si piega agli avvenimenti momentanei, che stende il suo arco al di là del tempo manifestato, possiamo creare delle convivenze libere e dignitose, godimento garantito, incluso. Abbiamo appreso nei secoli a non fidarci fra donne. Ora possiamo, prima di fidarci, cominciare a sfidarci per esserci accompagnatrici sul cammino. L'interesse politico. Esiste un interesse politico nel tenere divise le donne fra loro. Molto probabilmente il patriarcato crollerebbe in un attimo se le donne si permettessero di espandere quel campo sensuale che, quando non ostacolato, vibra fra loro in modo naturale e immediato. In questo caso si spingerebbero a sostenere se stesse e le altre, quali espressioni divine della grande meraviglia della vita, e svilupperebbero quella solidarietà che nasce dall'avere una precisa collocazione in un mondo fatto di stima e dignità in cui si può comprendere oltre il livello umano. Il patriarcato si regge sul nutrimento energetico ed emotivo delle donne. Non è connesso direttamente con la sorgente della vita, ma vi accede tramite le donne, ed è per questo che ha bisogno della loro obbedienza emotiva e psicologica. Non può permettere che questo nutrimento vada a colmare altri campi, come quello della sola energia femminile. Conviene concedersi un momento per riflettere sulle valenze del potere femminile. Sono le donne che sanno della vita e della morte a livello fisico. Il loro sapere raggiunge anche il livello magico, il fare e disfare è uno dei principi base della fattucchiera. Nella condizione dell'essere collegata, quella originaria e auspicabile per le donne e per tutti gli esseri umani e non, si trova un sapere infinito che va dai segreti della metafisica ai viaggi nel tempo, alle capacità che superano i presunti limiti del cervello. Si preferisce che questi saperi rimangano non a disposizione delle donne, ma nelle mani di pochi maschi scelti, perché l'interesse non è solo avere il potere, ma sottrarlo a chi si intende governare. C'è una sorveglianza ben precisa verso ogni tentativo di accesso al potere. Si può osservare che il conflitto fra le donne trova terreno facile quando si cerca di creare delle isole alternative alla consuetudine quotidiana e spirituale. Succede spesso, ed è cosa nota fra chi ci si avventura, che i litigi più feroci nascano a ridosso di un evento organizzato insieme, soprattutto se di grande portata politica, forza magica, sensualità, efficienza e potenza vitale. Certamente ogni singola donna può chiedersi qual è il punto interiore in cui si fa catturare dall'attrito e può decidere di accogliere gli avvenimenti come insegnamenti per riconoscere gli schemi interiorizzati in cui è preda del conflitto. Al di là di questo livello personale, però, ce n'è un altro, e sembra che sia quello di cui è più difficile parlare quando ci si riferisce a donne in difficoltà l'una con l'altra. Senza prestare il fianco agli squallidi scenari della cospirazione, vale la pena esaminare quello che succede in queste situazioni. Siamo influenzate dal campo sociale e politico che ci circonda e ci pervade, così come dal paesaggio in cui camminiamo, dall'aria che respiriamo, dalle correnti della storia che hanno determinato i presupposti fondanti degli avvenimenti attuali, dalla composizione chimica della terra su cui viviamo. Nell'immaginario che incontriamo quotidianamente e che si trasmette anche se decidiamo di vivere lontano da ogni interferenza del mondo moderno, la donna ha una sola e ben precisa funzione, quella di essere a disposizione delle esigenze dell'uomo, di rivolgere la sua attenzione, cioè la sua emotività ed energia vitale, verso l'essere umano maschile. C'è uno scopo inequivocabile che sta dietro a tutto questo ed è tenere a bada l'esuberante energia vitale femminile per potersene alimentare e sostentare così un sistema che di per sé non ha accesso a questa linfa indispensabile per la sopravvivenza. Può essere utile provare a esaminare il proprio vissuto sotto questa chiave di lettura. La politica non è qualcosa che accade lontano dalla propria vita, dalla quotidianità, da come ci si sente e si comprende, anzi si rispecchia in questo. Può essere sorprendente osservare le difficoltà che ci sono o ci sono state con le altre donne, considerando che c'è una forza esterna che nel suo interesse cerca di impedire alle donne di avventurarsi verso sentieri di indipendenza e di autonomia, perché questo implica che le loro energie vadano e si espandano in un campo accessibile esclusivamente a loro. Soprattutto nell'intensità di desideri condivisi e nella volontà di realizzare progetti insieme, dando vita a un campo specifico che sprigiona un'energia potente e mirata, si può insinuare con lestezza fra le donne una forza portatrice di fraintendimenti, distorsioni, contrasto e attrito. Spesso è difficile rintracciare l'arrivo inaspettato di un'irritazione tale da far scoppiare tutto il lavoro fatto, tutto l'impegno e la realtà costruita. Un'irritazione che affievolisce l'entusiasmo, la passione, la convinzione, la dedizione, la determinazione. Non è facile non farsi coinvolgere dal livello interpersonale che esige tutta l'attenzione e illude con la pretesa che è lì che devono essere chiarite le cose. E indagare invece oltre quel piano, oltre la vulnerabilità personale, lasciando da parte le proiezioni, le offese, i fraintendimenti, per provare a esaminare un campo più vasto e scrutare quel che arriva dagli orizzonti dell'interesse politico patriarcale. Con lo scopo di evitare l'alleanza femminile, un cuneo di malcontento individuale viene inserito nella crepa dell'insufficienza di base. Le emozioni scatenate, istigate e intensificate dalle nozioni del campo morfico distraggono alla perfezione dall'intenzione unificante originaria delle partecipanti, lasciandole deluse, incomprese, perse, rassegnate e, soprattutto, divise. Nelle possibili relazioni, e per relazione intendo interesse reciproco, senza precisi scopi di scambi emotivi, È interessante esaminare l'andamento dei tentativi di legame a tre, in cui spesso si può osservare conflittualità e conseguente scissione, che nascono da un'interferenza politica volta a garantire un livello di non accesso delle persone a un sapere altro, che avrebbe la potenzialità di far esplodere il modello socio-politico attuale. Il 3 sembra essere la geometria più stabile che esista. Lo sgabello ha tre gambe, non barcolla, e nel triangolo non è possibile, come per esempio nel quadrato e nel rettangolo, modificare il valore degli angoli senza cambiare la lunghezza dei lati. Nel paradigma limitante attuale, il 3 diventa invece una geometria altamente precaria a causa del suo contenuto sconfinante riguardo alle realtà fisiche ammesse e riconosciute. Include il sapere che si rispecchia nelle parole che trovai anni fa per strada, il fatto che non attraversiamo i muri è soltanto un accordo sociale. Ci sono tre tempi, passato, presente e futuro. I tempi sono collegati alla materia, non esistono senza materia, non esiste materia senza tempo. Quindi nella geometria del 3 si trovano i paradigmi del continuum spazio-temporale e di conseguenza le nozioni per poterli gestire, oltrepassando le leggi attualmente vigenti riguardo alla materia e al tempo. Ogni rappresentazione divina è costituita da tre elementi, quindi nel contatto tra tre persone emerge la possibilità di accedere a quei livelli di azione e di conoscenza, a quelle facoltà che normalmente vengono chiamate miracoli. Si trascendono le leggi della fisica e della materia, si apre un varco per oltrepassare i limiti stabiliti da un accordo sociale riguardo le proprietà e i comportamenti del continuum materia-tempo. Il sistema patriarcale ha bisogno, per mantenersi in vita, che queste facoltà siano collocate in un punto preciso chiamato Dio, per impedire un'anarchia spirituale e assicurarsi l'obbedienza e la mancanza di potere del cosiddetto popolo comune. Tanto più valgono queste considerazioni quando si tratta delle donne che accedono con facilità ai regni proibiti delle conoscenze divine. Non a caso scatta, in tanti casi di relazioni a tre, una presunta necessità di uccidere se stesse o l'altra persona, fisicamente o psicologicamente. Così la geometria viene distrutta, tutto rientra nel panorama normale e duale, dove non c'è il rischio che le energie esistenziali si sbizzarriscano in un vortice verso l'ignoto precluso, verso realtà diverse. L'interesse, la sensualità, l'emozione sono di nuovo al sicuro, prigionieri del concetto dell'amore, nutrimento a disposizione in una concezione duale di materia che stabilisce chi sta sopra e chi sta sotto. Il potpourri. Il livello interpersonale. Ecco la ricetta di una bella zuppa in cui tutto viene mescolato ben bene fino alla totale inscindibilità degli elementi in una confusione garantita. Mescoliamo a piacere tutti gli ingredienti e anche qualche altra delizia confusionale che non è stata ancora menzionata ed esplorata. Aggiungiamo un po' di rimbecillimento culturale, di rassegnazione storica, di interdizione educativa e di saggia precauzione. Invitiamo le care amiche, le stimate colleghe, le vicine di casa, le conoscenze occasionali, le donne adorate. Versiamo la nostra bella zuppa nel piatto, godiamo insieme di questo imparagonabile gusto di impotenza, sottomissione, presunta autonomia, divertimento limitato, sensualità impedita. Che bella serata. Facciamo progetti insieme. È tutto facile, pieno di ispirazione. Qui si può parlare di tutto, non c'è bisogno di nascondersi, ci si può fidare. Siamo tutte sorelle, sappiamo tutto l'una dell'altra. Noi donne siamo così dolci, sensibili, accoglienti. Si sta proprio bene fra donne. E poi? Che strano come si comporta questa. Come mi evita. Non eravamo d'accordo su. Avevamo detto di fare. E quest'altra mi riporta quello che ha detto su di me quell'altra ancora. Al che ci si infuria di sicuro. Mi sembra giustificato. Che tonfo! È il risveglio da queste illusioni. l'avverarsi della più totale confusione fra le donne, le amiche, le sostenitrici. Il livello interpersonale è il palcoscenico per tutte le impostazioni, tutti gli schemi che agiscono nel proprio essere. Qui incontriamo la messa in scena di quello che ci definisce, le convinzioni e le credenze di fondo, anche quelle a noi sconosciute. Qui si scatena la reazione al tocco profondo fra le donne, si dà forma a quello che questo tocco suscita nel proprio essere. I ricordi che emergono, le ripetizioni e i modelli che riaffermano la loro esistenza. Una performance preziosa, quindi, se siamo disposti ad accogliere le informazioni che ci dà con umiltà e con la voglia di imparare dagli avvenimenti della vita, da ciò che ci capita sul cammino. Uscire dall'ottica della resistenza, della lotta e dall'isolamento che ci fa percepire tutto ciò che è intorno come nemico, ci permette di spalancare la porta per prendere la strada verso il nostro potere e di mettere in dubbio i paradigmi fondanti della società in cui viviamo. Il conflitto prende piede lì dove viene osservata la legge non detta ma onnipresente di dover essere fonte di paura l'una per l'altra. Invece, laddove è possibile, con grande coraggio, delicatezza e passi traballanti forse, svelare i meccanismi e nominarli all'interno della relazione, fa sì che si apra un livello di condivisione di grande potenza che supera immediatamente quel clima consueto dell'esserci nemiche e concorrenti. Nel campo condiviso di ricerca si aprono paesaggi finora sconosciuti, si trovano strumenti mai posseduti e soprattutto si trova la stima per il proprio essere e potere, e per l'essere e il potere dell'altra. L'autrice potente, colei che sa dov'è collocata, che si sa intessuta nella grande meraviglia della vita stessa, che conosce le sue alleate e le antenate, la cui eredità trasmette, affronta con generosità, fluidità e trasparenza le situazioni di contrasto, consapevole della portata politica del suo agire su vari livelli, accogliendo con gentilezza l'occasione di ricerca che le si offre, e facendo confluire l'energia che ne scaturisce verso la rivoluzione. Per poter cambiare, occorrono fondamentalmente due cose: essere consapevole dei fatti e acquisire nuovi strumenti per dare vita a paradigmi diversi. La scelta sostanzialmente è tra comportarci seguendo il nostro imprinting storico e sociale, cioè obbedire ai paradigmi del patriarcato continuando a tramandare il trauma, oppure crearci una cultura autentica che rispecchi il sapere intrinseco della donna sull'essenza della vita, risvegliando la nostra perspicacia circolare e la capacità di accogliere i contenuti nella loro complessità, consapevoli delle loro possibili manifestazioni. Se scegliamo la seconda opzione, è indispensabile comprendere l'influenza degli eventi storici e le condizioni socio-politiche senza diventarne inconsciamente preda. Se siamo consapevoli dell'impatto traumatizzante della storia degli ultimi 5.000 anni, potremo costruire le fondamenta di una rivoluzione interiore, premessa necessaria per quella esteriore. Occorre scegliere se continuare a offrire a un trauma personale e transpersonale la possibilità di ripetersi e continuare così a creare dolore e sofferenza, oppure assumere la responsabilità del proprio sentire e sapere per il benessere di noi stesse e della Terra con tutti i suoi abitanti. È l'autrice potente che riconosce i riflessi sul proprio essere della giostra che gira sul palcoscenico, ma riconosce altrettanto che ha potere su quello che succede lì. È l'autrice potente che scrive la pièce invece di recitarla soltanto, senza vedere gli impulsi che stanno all'origine della trama. È l'autrice potente che può quindi cambiare il testo secondo ciò che ha maturato osservando lo spettacolo. All'autrice potente arrivi se, guardando il quadro d'insieme delle tracce lasciate dalla tua vita, scopri che c'è un modello ricorrente. Se ti stufi una volta per tutte di ripetere all'infinito lo stesso meccanismo in scene variabili. Quando proprio non ne puoi più, per noia o sofferenza, allora può capitare che, dopo aver vagato dentro e fuori la scena, tu scenda dal palcoscenico, esca dal dramma in atto per addentrarti tra le quinte e, fiutando una traccia sottile e promettente, trovi delle scale verso il sotterraneo che ti portano da lei. Ed eccola là, con penna e calamaio, chinata sulla carta, concentrata in un debole cerchio di luce, isolata, intenta a comporre i prossimi passi del copione. La osservi silenziosa e, senza volerlo, all'improvviso vedi tutti gli schemi, tutte le sovrastrutture e le paure passare per la sua penna e creare sul palcoscenico poco distante, sul livello più superficiale, una scena dietro l'altra. Vedi il disegno del suo destino, vedi le tracce dei traumi e delle ferite, e vedi come ripete e ripete nel disperato tentativo di comunicare e guarire. Ti prende allora un'enorme compassione per lei, e mentre il tuo cuore si riversa verso la sua sagoma silenziosa e concentrata, nel girare e rigirare dentro solchi conosciuti, all'improvviso ti fondi con lei e ti ritrovi china sulla tua partitura, con la penna in mano, mentre ti fai attraversare ancora e ancora dagli stessi disegni. Ti fermi e posi la penna accanto al calamaio. Fai un grande respiro e, sollevando la testa, stiri la tua schiena ed il tuo corpo e lasci che l'aria entri nei tuoi polmoni. Alzi lo sguardo e ti accorgi dell'ambiente che ti circonda. Di colpo vedi tutto: l'architettura delle quinte e del palcoscenico, quello che ti ha portato e tenuto lì. Vedi le persone impegnate a portare avanti con grande zelo la messa in scena che si sta svolgendo. Vedi lo spreco dei costumi, delle maschere, delle scenografie. Vedi la pedanteria delle battute, la fatica delle prove e finalmente la grande prima. Senti il peso emozionale che tutto ciò comporta. Ti accorgi della prigione che si innalza e si rinsalda in continuazione. Lentamente, con lo sguardo che pare perso nel vuoto, ma che invece ora può comprendere tutto, mentre ti alzi dal tavolo, le tue mani afferrano la carta su cui appena qualche istante prima eri ancora impegnata a scrivere, la cartocciano e la gettano via. Ancora un respiro profondo e avverti con stupore un'enorme risata che sale lungo la tua colonna vertebrale. Si fa strada a stento nel tuo corpo, ancora compresso dalla tua importanza, ma sale con una tale potenza che né i muscoli contratti né i nervi tesi la possono contrastare e iniziano ad arrendersi con piacere all'ondata di calore e divertimento, di astuzia, comprensione compassionevole. Ti avvicini alla scala a grandi passi, la sali 3 gradini alla volta e corri su, verso la luce, mentre i primi singhiozzi iniziano a uscire dalla tua gola. Giunta in cima, ti inarchi all'indietro e lasci che esca un'ondata di risa che fa vibrare tutto il tuo essere, allargandolo in un cerchio, sollevandolo così che possa prendere visione ancora di più della scena in atto che ormai vedi dall'alto. Non ti reggi più in piedi. Troppo ridicolo. Ti chini in avanti, con le mani sulle ginocchia piegate, mentre le ondate di risa continuano ad attraversarti senza pietà, tanto che stenti a riprender fiato. Quando crolli e ti rotoli a terra, tenendoti la pancia, le risa interrotte soltanto per indicare con il braccio disteso le scene sul palco, d'un tratto ti fermi e guardi con stupore. Senza accorgertene ti eri girata verso la terra, ma adesso vedi che è proprio lei, la terra, che stai toccando. Fili d'erba sotto il cielo, aria carezzevole. Senti le tue mani sulla sua superficie umida e gentile e avverti la forza che da lei ti arriva. E ora cominci a singhiozzare di sollievo, con gratitudine, perché sei arrivata a casa, sei libera. Ti sei disfatta dell'importanza limitante delle tue rigide impostazioni e ti lanci piangendo nell'abbraccio della grande madre che sa e sorride.